Permetto di presentare stasera come riapertura un po' dei programmi e iniziative della Fondazione il professore Jacques Revel, che non ha certo però bisogno di tante presentazioni perché è notissimo appunto a tutti noi, a tutti i presenti. Ricorderò soltanto che è direttore d'études all'École d'études a Parigi, è stato membro dell'École française qui a Roma, è autore di studi rilevantissimi, tra quelli apparsi in italiano ricorderò il volume fatto a quattro mani con Arlette Farge sulla logica della folla, sui rapimenti dei bambini nella Parigi del 1750, proprio alla metà, nel pieno del secolo dei lumi. E poi ricorderò anche che negli ultimi tempi ha dedicato dei lavori specifici al tema su cui ci riferirà stasera, cioè al tema della corte. Il tema di stasera, della conferenza di questa sera del professor Revel, che si inserisce, ripeto, nel quadro del nostro ciclo seminariale, appunto annoso, nel senso che durerà ancora, credo, almeno per un anno e mezzo, su tempi, nomi e riti della sovranità e le regole del gioco, il re nella sua corte, con una periodizzazione, da quanto leggo, a cavallo tra il XVII e XVIII secolo. Io non dico altro se non che spero che la caratterizzazione di questo incontro sia seminariale, quindi spero che la discussione sia nel merito delle cose che il professor Revel ci dirà. Prego. Grazie. Non sono sicuro che la mia accezione del tema della sovranità corrisponda completamente agli interessi di questo seminario, ma farò del meglio. Nella primavera del 1233 Chateaubriand fu inviato come un ambasciatore informale della duchessa di Berry presso Carlo X, l'ultimo dei Borboni francesi, che era stato esiliato a Praga. Il re Carlo viveva qua con qualche dozzina di parenti e di aiutanti. E la sua era una specie di caricatura della vecchia vita di corte. La vita all'Oracin era buia, il cibo era pessimo, la conversazione era miserabile. Chateaubriand scrive un circolo di luoghi comuni, il gioco del re a notte avvenuta era quello che si sarebbe potuto trovare in qualunque caffè della Francia provinciale, però era una corte, le apparenze almeno erano salve, nonostante il fatto che lui stesso fosse a favore della monarchia, Chateaubriand, con la sua caratteristica crudeltà, dà il dettaglio dell'etichetta, l'organizzazione rigorosissima del tempo, la preservazione delle forme sociali, eccetera. E lui conclude che è una forma fossile, però ancora una corte. Questo esempio un po' tardivo fa chiaro che è molto difficile per noi oggi di pensare le corti del passato come altro che scenografie, perché noi molto spesso, volentieri, trattiamo le apparenze, le maniere come convenzioni povere, come cose superficiali. Dagli antropologi abbiamo imparato che sì, i rituali sono importanti, ma i rituali sono complessi, sono delle costruzioni elaborate, imponenti, che si riferiscono alla sfera del potere, ai misteri dello Stato, alla riproduzione del gruppo sociale. Paragonate con i rituali, le forme curiali sembrano di essere leggere, quasi niente, dei gesti, delle attitudini, delle espressioni, dei comportamenti, niente di paragonabile con le formalizzazioni molto ampie che circondavano l'incoronamento del re o i funerali regali. Questo mio intervento sarebbe una ricerca per tornare su questa convinzione e forse per cercare di dimostrare che dietro queste apparenze c'è qualcosa di più importante. Naturalmente penso che dall'inizio si deve riconoscere quello che io, come tanti di noi, debbo all'opera di Norbert Elias. Voglio solo ricordare qui che Elias scrisse la sua tesi di abilitazione molto presto, nel 1933, ma che il testo fu solo pubblicato come libro, La società di corte, in tedesco nel 69, e che la sua ricezione fu ancora più tardiva e avvenne soprattutto nella versione francese a metà degli anni 70. Va anche ricordato che il lavoro di Elias è quello di un sociologista, non di uno storico, e per questo non mi sembra giusto criticarlo dal punto di vista di uno storico professionale. È vero che la sua documentazione è povera, lo era già nel suo tempo, lo è ancora di più oggi, ma direi non è questo che noi cerchiamo in un libro come La società di corte. Quello che cerchiamo è un quadro interpretativo di impronta chiaramente weberiana. Non penso che sia necessario di ricordare molto a lungo le linee di forza di questa analisi. Penso che basterà dire che per Elias la società di corte è il punto finale di un'evoluzione centrale che corre attraverso il Medioevo e l'età moderna, specialmente nel caso francese. Per Elias la predominanza del potere del re, che culmina con la monarchia assoluta alla fine del 5 e durante il 6-700, è basata su un doppio monopolio che il re ha lentamente acquisto: un monopolio sulla violenza e un monopolio sul fisco, sulle risorse fiscali. Ma il suo non era un potere tirannico. Il suo potere lavorava come quello di un arbitro, o più esattamente di una specie di grande manipolatore delle tensioni sociali, che usava le tensioni esistenti fra i diversi gruppi al suo profitto. La società di corte per Elias va dunque letta come l'incarnazione finale di questo processo di lunga durata, che è la base stessa del potere del re, riprodotta attraverso un sistema di interrelazioni contraddittorie che il re è sempre capace di manipolare e di riprodurre. Per Elias la corte è un posto di pacificazione sociale e anche di domesticazione sociale. Lì i diversi gruppi compongono le élite trovano riconoscenza, onore, grandezza, ma anche una forma di domesticazione. Non ho l'intenzione qui di discutere più avanti il modello Elias nel dettaglio, che sarebbe l'argomento di un altro seminario, anche se nel corso di questa presentazione sarò tentato di corrigere o rivedere alcuni punti di questo modello, ma mi sembra giusto di riconoscere dall'inizio quello che va indebitato alla sua interpretazione. Vorrei adesso entrare nell'argomento e cominciare con una specie di paradosso. La corte è il regno dell'apparenza, ma le apparenze curiali sono caratterizzate con una doppia e contraddittoria caratterizzazione. Di una parte l'apparenza significa menzogna e la volontà di ingannare. Dall'altra parte la vita della corte costantemente suggerisce che una forma di perfezione sarebbe eventualmente compiuta nel quadro curiale. Naturalmente il problema qui si può formulare come possono essere vere ambedue caratterizzazioni. Voglio esaminare una poi l'altra. Prima menzogna. Questo tema della corte bugiarda è un topos molto tradizionale, probabilmente così vecchio come la corte e la letteratura di corte. Già nel Medioevo il Raimondo Renard, una parodia in chiave animale della società di corte, insisteva su l'adoppiamento del corteggiano, e questo direi sarà caricato di generazione in generazione attraverso i secoli. I corteggiani non sono mai quello che pretendono di essere, non dicono mai quello che sono. Il mondo della corte è un mondo di maschere che ingannano altre maschere, un gioco di illusione dove non c'è posto né per l'autenticità né per la sincerità. E lì c'è una cascata di metafore che troviamo dalla fiera alle vanità al carnevale o al tema della maschera. Ma questa denuncia in chiave morale molto spesso suggerisce una critica politica. Se i corteggiani sono così vani, non è perché sono corrotti. Sono corrotti perché devono essere tali, nella misura nella quale sono membri di una forma sociale particolare. Sono protagonisti di un gioco del quale non sono mai capaci di ammaestrare le regole. Perché? Perché c'è solo un maestro del gioco, il re stesso, l'unico che sa come le carte sono distribuite e cosa c'è sul dosso delle carte. Prendere un'altra delle ricorrenti metafore del tempo. Il re solo vede la realtà di quello che i corteggiani pensano di vedere, ma il re non condivide mai la sua conoscenza. Lui è l'unico creatore del valore, l'unico dispensatore del valore sotto forma di grazie, di favori. Lui crea delle condizioni che si potrebbe chiamare di incertezza generalizzata. E questo affatto costringe i cortigiani a essere doppi, a essere bugiardi. Uno degli aspetti più strazianti della esasperazione dell'assolutismo nel tempo di Luigi XIV è chiaramente stato un senso crescente del carattere imprevedibile della volontà del re. Quella constatazione può assomigliare, sembrare di essere contraddittoria con la nostra comprensione della corte come una società strettamente ordinata attraverso un sistema severo fondato sulla nascita, sul lignaggio, sull'alleanza. E questa gerarchia ci sembra di essere fatta visibile attraverso le prescrizioni dell'etichetta. E questo, anche questo, è naturalmente vero. Mai prima del regno di Luigi XIV furono i posti, i privilegi, i doveri di ciascuno codificati così strettamente come lo furono allora. Non solo il titolo, ma il modo nel quale a uno era consentito di parlare al re, alla sua famiglia, agli altri cortigiani, come a lui era consentito di prendere parte alla vita sociale, di vestirsi, di sedersi, tutto questo era fissato in un dettaglio minuto e fu materia di un'osservazione e di un commentario senza fine. Pensiamo a Saint-Simon, naturalmente, che spende una grande parte delle sue memorie all'osservazione e al commentario di queste realtà, ma non solo a Saint-Simon, pensiamo a Sévigné o a una scrittrice come Madame de Lafayette. Ma questa messa in ordine, strettissima, non era che una parte, un lato della realtà, perché allo stesso tempo il re permanentemente cambiava le regole del gioco. Lui usava la sua grazia e talvolta anche la sua capacità di disgrazia per pervertire questo ordine così sacralizzato. Il re anche, attraverso la moltiplicazione quasi indefinita dei privilegi, sia collettivi come individuali, faceva in sorte che da ridistribuire le risorse, i segni della stima, le distinzioni, all'interno di un gruppo che era supposto di essere oggettivamente gerarchizzato. Ha fatto di una parte il re fissa un ordine e dall'altra parte cambia, perverte l'ordine secondo la sua libera volontà. È vero che alcuni dei cortigiani erano lucidi e abili e capivano quello che stava accadendo. Capivano tra l'altro che lui pagava con falsa moneta. Quando Saint-Simon regalato col privilegio di tenere la candela accanto al letto del re, sì, era capace di ridere dell'abilità di Luigi XIV di, come dice, dare importanza a dei nulli, però lo ha accettato, e non solo lo ha accettato, ma fu contento di accettarlo. Perché? Perché era una distinzione che era un modo di essere promosso nei confronti di tutti gli altri. Cioè, uno poteva prendere distanze, ma al stesso momento era costretto a riconoscere che era un segno importante. E questo doppio gioco ci può fare anche capire perché in questo caso l'inflazione dei privilegi non fu mai, non ebbe mai come conseguenza una svalutazione generale di questi segni. Perché? Perché questi segni erano emanati di un'autorità che era al di là di qualunque discussione e della quale il credito era interminabile. Attraverso l'accettazione delle regole fissate liberamente dal re, si dimostrava che si trattava di scambi su un mercato sotto controllo e sotto controllo di un solo. L'esempio che forse dà l'idea più chiara di questo gioco complesso è quello di Marlì. Luigi XIV aveva deciso di trasferire la sua corte a Versailles nel 1682, ma appena fatto scoprì che questo nuovo palazzo era troppo grande e soprattutto troppo affollato, 5-7 mila corteggiani, poi gente intorno era troppo, e per questo quasi subito decise di far costruire una piccola residenza, a parte, qualche chilometro al di là di Versailles, e lì decise di andare in modo irregolare per qualche giorno con una comitiva, se si vuole, di 20, al massimo 30 persone che lui personalmente sceglieva, affissava sul muro una lista. Per questo, naturalmente, gli inviti a Marlì sono stati un oggetto di competizione molto forte fra i corteggiani. Era un argomento di elezione e, naturalmente, anche di disillusione per quelli che non erano scelti. Lì, i più bravi, i best and beautiful, erano ammessi in condizioni molto diverse dalla corte, nel senso che le regole dell'etichetta erano cancellate. I corteggiani erano supposti di venire qui senza apparato, senza servi e con un vestito semplice. I signori era pure consentito di guardare il cappello in testa avanti al re. Le maniere erano semplici e uguali, si diceva. Questo almeno erano i principi. Ma questi principi molto, molto presto sono apparsi di essere fittizi, e guai a chi credeva che a Marlì le cose fossero diverse di altrove. Ha fatto la residenza di Marlì era sotto un costante controllo e un oggetto di spionaggio generalizzato. E poi quelli che immaginavano che le regole erano cambiate molto presto imparavano alle loro spese che non era così. Prendo solo un esempio: nel 1707 la duchessa di Torcy fu invitata a Marlì. Non era nessuno. Era la nuora di Colbert, era la figlia di Pomponne, ex ministro degli affari esteri, e era la moglie di Colbert di Torcy, che anche lui era segretario agli affari esteri. Un giorno, per caso, lei si siede alla tavola del re tre posti al di là di quello che si doveva, cioè del suo rango oggettivo, pensando che andare lì non costava niente. E naturalmente il cielo le casca sulla testa e lei cade per mesi in una semidisgrazia perché ha creduto che lì era diverso dalle altre parti. Una storia come questa non è eccezionale e non credo che va interpretata solo in chiave psicologica. Penso che al contrario fa molto chiaro il meccanismo elementare della società di corte francese. E il re solo che decide delle regole del gioco e le cambia quando vuole e così spesso come vuole lui. Quelli che vengono più presso a lui, più vicino a lui, possono essere invidiati dagli altri, ma naturalmente prendono un rischio più grande che gli altri. E per questo devono dissimulare, per questo devono essere bugiardi. Adesso vengo all'altro lato di questo sistema che vi ho scritto. Ho parlato dell'aspetto Manzonia, vorrei adesso trattare più brevemente dell'altra faccia della corte, cioè di questa verità. Nonostante il fatto che, in modo molto generalizzato, la corte è stata denunciata come un luogo di illusione, allo stesso momento va anche molto leggermente trattata come un posto privilegiato per l'osservazione psicologica, come un luogo dove la pittura dell'anima umana si fa al naturale. I medesimi moralisti, pensiamo alla Bruyère, o memorialisti, pensiamo a Saint-Simon, o romanzieri, pensiamo a Madame de Lafayette, gli stessi che sono consueti di stigmatizzare le menzogne dei cortigiani, sono allo stesso momento convinti che sono in grado di imparare qualcosa di unico sull'uomo nel quadro curiale. A questo punto vale forse la pena ricordare che le memorie di Saint-Simon sono state due secoli dopo una sessione di referenza per Proust. Madame de Lafayette è nota come una romanziera, ma era anche una memorialista. Alla fine degli anni 60, nel 600, la moglie del fratello del re, Henriette d'Angleterre, la prima madame, le chiese di scrivere il suo ritratto e gli disse in sostanza se lei, Madame de Lafayette, cercasse di raccontare quello che è accaduto in vita mia, sarebbe l'argomento di una storia molto bella. Lei, Henriette, affatto era un carattere romanesco, era carina, aveva avuto una serie di affari di cuore complicatissime e anche avuto una morte precoce e molto misteriosa che naturalmente non poteva prevedere. Più generalmente la vita alla corte era l'oggetto di un commentario indefinito, sotto forme di aneddoti, di ritratti, di narrative, non solo da parte di quelli che stavano alla corte, ma anche dalla parte di quelli che stavano fuori. L'oggetto l'oggetto di questi racconti non è per niente sorprendente. Storie di potere, storie d'amore e storie familiari. Però quello che è notevole è il fatto che tutti questi scrittori erano convinti che alla corte c'era qualcosa di più che nel resto della società, che la stessa densità sociale delle relazioni di corte, la concentrazione di grandezza, di ricchezza, di potere e di ambizione agiva come una lente che consentiva di analizzare come funzionava la società. E questo forse spiega perché la vita di corte fu capace di scambiare così facilmente le sue caratteristiche con quelle di opere letterarie, col teatro per esempio. Primi Visconti, che era un virtuoso italiano e un gran cinico, pensava e scriveva nel tempo di Luigi XIV che la corte era la commedia più piacevole di tutte, e trattava anche il re stesso e il serio di Luigi XIV come quello di un re di teatro. Ma questa continuità fra la corte e letteratura o la materia letteraria mi sembra ancora più straziante col romanzo, più che non col teatro, a causa forse della molteplicità e della complessità degli intrighi. Ha fatto la vita a corte era un romanzo perché consentiva di ricreare nella vita reale delle situazioni che normalmente erano quelle della fine. Se questa analisi è corretta, ci potrebbe aiutare a risolvere il paradosso dal quale sono partito all'inizio di questa presentazione. La menzogna e la verità non sono affatto contraddittorie. Non sono contraddittorie perché non si riferiscono allo stesso ordine di realtà. Quelli che denunciano la menzogna della corte si riferiscono ai dei valori morali. Quelli che invece pensano in termini di verità alludono a un livello psicologico. E su questa osservazione psicologica cercano a costruire un'interpretazione della vita sociale, o se si vuole una scienza dell'azione, una prammatica. Abbiamo dunque due approcci che costruiscono delle realtà completamente diverse. L'unico elemento che hanno affatto in comune è la convinzione che la corte è un gioco serio e che va preso come una matrice del vincolo sociale. Vorrei adesso venire a un secondo punto, che sarebbe proprio lo statuto delle apparenze. L'esigenza, la prima esigenza e la più centrale della vita di corte è che tutto deve essere visibile e che in conseguenza niente deve essere nascosto. Il re e la sua famiglia sono costretti da questa regola come qualsiasi corteggiano. Questo è probabilmente un'originalità della corte francese. Se per esempio facciamo il paragone con la corte di Spagna, dove le apparizioni del sovrano sono rare, sono contati e per lo più limitate a delle performance di tipo religioso. Invece a Versailles, fin dall'inizio, la corte è stata un spettacolo collettivo dove il re doveva essere accessibile o almeno visibile a ognuno. Questo naturalmente ha a che vedere con la forma stessa dell'assolutismo francese. Lo storico americano Ralph Gisi ha suggerito recentemente che se la maggior parte dei grandi rituali monarchici sono spariti alla fine del 5 e soprattutto durante il 600, era perché il cerimoniale curiale, il cerimoniale di corte, aveva sostituito una nuova forma, una nuova immaginazione del potere a un'altra, dove prima si pensava nei termini dei due corpi del re, i King's Two Bodies di Kantorowicz, invece stavolta l'assolutismo presentava un corpo del sovrano riunito e semidivinizzato. E devo dire che condivido largamente i suoi analisi. Luigi XIV ora doveva rappresentare fisicamente la maestà sovrana, il vero principio di sovranità. Nelle sue performance di corte, nel modo di comportarsi, doveva essere l'incarnazione di quello che i giuristi francesi avevano elaborato per un secolo, dalla metà del Cinquecento, in poi in un modo così ostinato. Luigi, nello stesso tempo, era un uomo di carne e era un principio, e le due cose non si potevano più separare come prima. Per questo l'attenzione scrupolosa che lui aveva per il suo comportamento quotidiano. Luigi aveva di essere il cortigiano perfetto più che nessun altro cortigiano. Saint-Simon, che così spesso critica il re, deve riconoscere l'importanza del suo investimento nell'apparenza propria. Di una parte, scrive Saint-Simon, lui costantemente offriva lo spettacolo di una scienza maestosa che imponeva il rispetto. Dall'altra parte, il suo tempo era così strettamente organizzato che bastava sapere il giorno e l'ora per sapere cosa faceva, senza la minima alterazione. È difficile credere, conclude Saint-Simon, come questa esattitudine sua creava nella sua corte fierezza, grandezza e efficienza politica. Naturalmente il re, come tutti, poteva essere ammalato, poteva affrontare incidenti, ma tutto questo non contava. Anche la sua morte non doveva dirompere la regolarità visibile della corte. E a fatto abbiamo pure un controesempio. Quando nel Settecento i successori di Luigi XIV hanno pensato che potevano scappare a queste regole e, per esempio, crearsi uno spazio di vita privata, di privacy, l'hanno pagato un prezzo molto alto. Questo si verifica sia per Luigi XV che per la regina Marie Antoinette, che avevano ambedue dimenticato questa legge basica che una persona reale non ha privato, non può essere privato. Al contrario, tutti aspetti della vita e della morte del re dovevano essere visti e visibili dal momento quando si alzava fino al momento del sonno, il lavoro, i piaceri, l'amore e finalmente l'agonia e la morte, tutto doveva essere pubblico a causa di questa doppia pertinenza della persona del re. Lo stesso tipo di obbligazione, naturalmente, che il re si infingeva liberalmente, erano imposte ai corteggiati. Anche loro, naturalmente, dovevano far visibile tutto di quello che a loro accadeva, senza spazio, senza spazio libero, senza spazio accessibile fra l'apparenza sociale e la dimensione personale. E questo, nel caso dei cortigiani, non era una scelta liberale, era un dovere. Così lo voleva il sovrano. Luigi gli faceva sapere che odiava il segreto e naturalmente odiava anche di più le cospirazioni, le cose che si nascondeva nella sua corte e che erano così congeniali con la corte. Il re era anche molto riluttante nei confronti delle passioni degli altri. Il suo affatto era un sogno di trasparenza generalizzata. Per lui la corte doveva essere uno spazio sociale dove il posto e il ruolo di qualsiasi sia, di ognuno, sarebbe chiaro a tutti gli altri. E questo era una delle funzioni chiave dell'etichetta, che consentiva una esternalizzazione completa non solo dei ranghi, ma anche delle forme relazionali fra quelli presenti a corte. L'etichetta sboccava su una retorica di gesti, di parole, che dava a ciascun individuo una parte visibile nel gruppo e dunque lo rendeva altamente prevedibile. Per essere sicuro che tutto funzionasse così, Luigi aveva dei mezzi e prima di tutto aveva delle spie. Versailles era un gran posto di spionaggio. Dietro ciascun cespuglio c'era una spia. La posta era sempre aperta, tutto si sapeva e se non si sapeva c'era qualcuno per denunciarlo. Affatto la corte era una specie di rete generalizzata di osservazione e di informazione. Le ragioni per queste sono ovvie. Fra i cortigiani che stavano a Versailles, qualche migliaia, come ho detto, al turno fra il 6 e il 700, la competizione era così dura a tutti i livelli, che ogni opportunità per massimizzare le risorse proprie o per minimizzare le risorse degli altri, che era la stessa cosa naturalmente, doveva essere presa. Ciascuno per questo aveva a guardare a tutti gli altri, ma naturalmente, simmetricamente, andava osservato dagli altri e il valore di ciascuno individuo era l'oggetto di un'evaluazione permanente su una forma di borsa ai valori specifica. Il valore di ciascuno dipendeva sì di quello che aveva fatto, dalla forza del suo sistema di parentela o di alleanze, casomai del successo del suo lobby, delle cabale, come si diceva in questo tempo, ma soprattutto dipendeva dall'elemento più elusivo, più incerto, meno prevedibile, che era il favore del re. Questo favore poteva essere un titolo, un regalo, una posizione, ma poteva anche essere niente, una parola, un segno, uno sguardo. lo stesso Primi Visconti racconta quando il re vuole guardare a qualcuno, la persona che lui ha eletta pensa che il suo destino è sigillato per il meglio e lo fa conoscere. Il re mi ha guardato. Come abile questo re, scrive Primi Visconti. Quante persone ha pagato con un semplice sguardo. E ritroviamo una volta di più questa metafora fiduciaria che penso fondamentale nel spazio curiale. Ora, questi sguardi o altre forme di grazia o al contrario di disgrazia erano immediatamente registrate sul mercato curiale. Tutti sapevano. Il rating di ciascuno era immediatamente tradotto nel commentario collettivo. Questo rating, questa valutazione del valore individuale e collettivo, era l'oggetto più prezioso alla corte, era l'informazione. Per questo i dettagli indefiniti di Saint-Simon su chi è chi a ogni momento. L'informazione sul valore degli altri e naturalmente sul valore proprio è alla base della razionalità. In conseguenza, il bravo cortegiano è quello che sa dove procurarsi l'informazione e naturalmente non la dà agli altri. Per questo non è paradossale, ma molto logico, che la richiesta di una visibilità totale abbia prodotto una simmetrica inclinazione alla dissimulazione. Se l'espressione dei sentimenti, dei passioni o il delineamento di strategie crea un rischio che ti mette sotto controllo da parte del re o da parte degli altri corteggiani, naturalmente non si devono dimostrare. Anche lì il re poteva servire come un esempio. Lui era accessibile a tutti, visibile a tutti la più parte del tempo, ma allo stesso momento non dimostrava niente. Era famoso per la sua memoria, per la sua grazia, la sua eleganza nella conversazione, ma allo stesso tempo era un specialista del nulla. Era molto noto per raccontare così delle generalità. Racconta Primi Visconti, si dovrebbe vedere questo re, è come un gran simulatore, con degli occhi di volpe. Non parla mai degli affari di Stato, se non nel suo concilio con i suoi ministri. Per il resto, lascia una parola o due con i cortegiani, parlando della loro posizione e dei loro privilegi, ma non entra nel dettaglio. Qualsiasi che racconta, sarà ricevuto come un oracolo. Questo, direi, è un modello che poi va riprodotto con meno autorità a tutti i livelli della vita di corte. Se così fa il maestro, fanno anche gli altri. Anche se naturalmente non possono radicare la loro dissimulazione o almeno la loro discrezione nell'alta politica come fa il re. Se tutto alla corte va osservato, non c'è niente di importante che deve essere dimostrato. E lì si radica un sistema sempre più complesso di autolimitazione nel quale Norbert Elias molto giustamente vede l'aspetto centrale di quello che lui chiama il processo di civilizzazione. In questo processo, come Elias l'ha fatto chiaro, la corte occupa una posizione chiave, nel senso che la densità eccezionale ha nomale di aggressività sociale impone delle forme di protezione a ciascuno. Era così in tutte le corti, come lo pensava Elias, probabilmente non è vero così. Anche se il tema della dissimulazione è un topos che corre attraverso la caratteristica di corte e che parla di teatro o di maschere o di artefatti, non credo che tutte le condizioni hanno dato spazio alle stesse forme di rappresentazione sociale, e su questo vorrei concludere. Per far questo punto più chiaro, vorrei tentare un paragone fra due modelli di corti, uno da loro probabilmente notissimo perché italiano e cinquecentesco, e l'altro quello che tratto, quello della Francia della fine del 6 e del 700. La trattistica di corte è molto ampia e anche molto ripetitiva, va detto. In questa produzione letteraria, un libro da un posto a parte è naturalmente Il Corteggiano di Baldassar Castiglione, un libro pubblicato a Venezia nel 1528, poi diffuso attraverso dozzine di edizione, adattazione, traduzione e anche deformazione molto forte per più di due secoli. Un best seller, secondo i criteri del tempo, che ha servito di grammatica alla vita di tutti. Questa lunga durata del testo di Castiglione, però, non ci deve ingannare. È anche un testo molto datato. Cioè un testo che va rimesso nel suo contesto politico-culturale. Sapete tutti naturalmente che Il Corteggiano è scritto come un dialogo ciceroniano che suggerisce una finzione. Per quattro notte, fuori della presenza del sovrano, agli Urbino, i suoi cortigiani discutono liberalmente del punto più importante di tutti: che cosa significa essere un cortigiano, perché siamo così diversi dagli altri uomini. Si tratta dunque di una rappresentazione che figura caratteri che si chiedono sulla loro, si interrogano sulla loro funzione di rappresentazione. E Il Corteggiano suggerisce una triplice legittimazione della società di corte. La prima legittimazione è di tipo retorica, come per l'orator ciceroniano, i personaggi del Castiglione fanno chiaro che il corteggiano perfetto si realizza nelle parole e che tutto a corte è a che fare con le parole, le qualità, lo statuto, le forme di socialità, d'azione, tutto è parole, un mondo performativo, se si vuole, dove le parole sono efficienti. Il secondo tipo di legittimazione ad opera nel dialogo di Castiglione si potrebbe chiamare di tipo fenomenologico, nel senso che cerca di fondare lo statuto dell'apparenza. I personaggi del Castiglione riconoscono che il corteggiano perfetto dovrebbe essere identificato con la sua apparenza, con le sue maniere, con quello che lui dimostra di essere nella società di corte. Ma questa prevalenza dell'apparenza è solo possibile perché, come essere umano, il cortigiano è già un uomo diverso dagli altri. Il lessico è uno dell'eccellenza, del dono, della grazia, e la qualità corteggiana può solo essere riconosciuta, non è materia di acquisto, è un dono che va riconosciuto dagli altri. Questo è più di un circolo logico-retorico, cerca di far chiaro che l'apparenza è una preoccupazione seria e che l'apparenza fonda il vincolo sociale fra i happy few, il piccolo circo di quelli che sono raggruppati intorno al principe. L'apparenza per questo è una preoccupazione seria, ma una preoccupazione immateriale e indecita. La terza forma di legittimazione che adopera nel corteggiano di Castiglione di natura, credo, politica. Ho già menzionato il fatto che nel dialogo del corteggiano il Duca di Urbino è simbolicamente assente, è supposto di essere malato, e per questo lascia i corteggiani liberi della loro definizione, dell'autodefinizione e dell'autogiustificazione. La vera organizzazione del testo di Castiglione suggerisce che la relazione esistente fra il principe, Duca d'Urbino, e i corteggiani non è tanto una di dipendenza che di reciprocità. Certo, i corteggiani sono la corte perché lì c'è un potere e un principe, ma simmetricamente c'è una corte perché ci sono i corteggiani, e così attraverso i corteggiani la corte è responsabile per un processo di civilizzazione. La corte e i corteggiani sono i mediatori fra il principio di potere, la sovranità come principio, e l'invenzione delle forme sociali. Il principe che ha ineritato il potere per la nascita deve pure riconoscere quegli altri che hanno ineritato il dono della grazia che gli consente di stare intorno a lui. La relazione è una relazione di reciprocità e direi è tanto più ovvia che nell'Italia del Cinquecento non c'è una corte ma un arcipelago di corte, è l'esperienza del Castiglione stesso. Ma al contento di un principe si può sempre andare altrove a farsi valere e tentare il gioco. Questo spiega anche perché questa relazione può essere così reciproca in questo testo, che peraltro è un testo nostalgico, cioè racconta storie di una società che sta sparendo al momento dove scrive Castiglione. Voglio adesso saltare un secolo e mezzo e andare verso la corte di Francia. Nella seconda metà del Seicento il corteggiano serviva ancora di referenza culturale, non solo in Francia, ma in quasi tutti i paesi europei, anche se il significato del libro era stato largamente tradito e pervertito. Là dove c'era un dialogo liberale, adesso c'era un trattato di buone maniere, anche direi nella dimensione fisica, materiale del libro, organizzato attraverso un sistema di capitoli, di massime, di sentenze, di indici, eccetera, eccetera. Ma stavolta, alla fine del Seicento, il testo del Castiglione lavorava in un contesto politico-culturale completamente diverso. La corte di Francia era unica, e la sua centralità deprivava i corteggiani di qualsiasi alternativa. O si andava riconosciuto alla corte del re, o si spariva almeno come corteggiano. E quello che, per esempio, fu l'esperienza di Saint-Simon, quando lui decise di lasciare l'esercito perché non fu promosso brigadiere nel 1690. Credo, lui scoprì molto presto che non esisteva più. e la conseguenza logica era di partire in esilio per un anno e mezzo e poi di tornare con delle migliori disposizioni. In queste condizioni la vera natura dell'apparenza cambia completamente nei confronti di quello che descriveva Castiglione. Dai cortigiani non si aspettava più i loro contributi all'invenzione di forme sociali. Quello che invece si aspettava era di occupare il loro posto, il loro rango, in conformità con la regola del gioco. L'etichetta è più profondamente una serie di regole organizzative dei comportamenti e della parola, imponeva delle forme di sociabilità normative. Non si trattava più di essere fedele a un ideale liberamente delineato tra cortigiani, ma di ubbidire alla regola. Adesso l'ideale curiale era quello che molto spesso va detto dell'orologio perfetto, così lo chiama Saint-Simon, che in altre parti parla della meccanica che regge la corte, un sistema autoregolato nel quale il gioco delle diverse tensioni si annulla e mantiene in movimento il meccanismo. Ma naturalmente in questa società molto diversa di quella evocata e idealizzata da Castiglione, il controllo, la gestione dell'apparenza era caricato di pensieri strategici. L'apparenza era una risorsa che consentiva di vincere o, al contrario, di perdere nel gioco sociale. Non mi sembra un azzardo se a questo momento, a partire dalla metà del Seicento, la metafora del gioco torna in modo così ostinato nei commentari della corte. Si parla, l'ho già detto, delle carte, si parla del torneo, ma la metafora preferita è quella dei scacchi. I scacchi, cioè il gioco del re, dove si vuole ammazzare se uno non vuole essere ammazzato. Madame de Sévigné, che pure è una specie di outsider alla corte, scrive che quando impara a giocare ai scacchi che è una cura eccellente contro l'orgoglio. Così potete scoprire, scrive, la miseria e i limiti dello spirito proprio. E si trova un eco nel carattere di La Bruyère che dice: come i scacchi, la vita a corte è un gioco serio, ma un gioco sia malinconico come esigente. Uno deve essere preparato, ma sa che rischia tutto a ogni momento. Questo gioco, e finisco su questo, ubbidisce a dei precetti. Il primo, che già ho menzionato, è il segreto. Il secondo è la dissimulazione. Ma non l'onesta dissimulazione di Castiglione e dei seguaci di Castiglione, cioè creare un'apparenza più bella, più ricca della realtà. Questa volta la dissimulazione è pensata come un argomento tattico. La dissimulazione è un modo di aspettare e di prendere vantaggio sugli altri partner del gioco. Quando Saint-Simon fu informato nel luglio del 1714 che Luigi XIV aveva legittimato i suoi bastardi, fu un shock, tra l'altro perché per lui lo risente come un attacco contro il suo rango, i duchi e pari di Francia, però fu capace di dissimularlo. Quando due anni dopo la morte di Luigi XIV, il testamento del re fu cancellato e i bastardi delegittimati, Saint-Simon riuscì a essere sostanzialmente opaco. Scrive: io stavo per crepare di gioia, però fu capace di non dimostrare niente. Lo terzo precetto è l'azione. L'azione, sì. Alla fine, nell'ultimo quarto del Seicento, il cortegiano, sì, era ancora letto, ma si impone allora un'altra referenza che probabilmente è molto più significativa. Si tratta di un libro, di nuovo, una collezione di sentenze che era l'opera di un gesuita spagnolo, Baldassar Graciano, che era più noto all'epoca come un grande teorico della retorica. Infatti il libro non era nuovo. Era stato pubblicato nel 1647 a Huesca sotto il titolo Oraculo Manual y Arte di Prudencia. Era un libro di avvisi che insegnava prudenza, ma che all'origine non era dedicato alla corte. Era scritto per i frequentatori del collegio gesuitico di Huesca, per quelli che volevano riuscire della società. Per mezzo secolo il libro non ebbe come tale qualche successo notevole. Fu solo famoso attraverso la sua versione francese, attraverso la traduzione di Amelot de Houssaye nel 1684, sotto un titolo nuovo. Non era più un libro per i giovani borghesi, allievi dei gesuiti della provincia spagnola, stavolta si chiamava L'Homme de Cour. E fu sotto la veste di L'Homme de Cour, il cortegiano, che fu ricevuto attraverso l'Europa come una nuova grammatica della vita curiale. Ora, in questo libro cosa c'era? Il libro può essere caratterizzato, primo, da un attraverso un pessimismo radicale. Secondo, è un libro che insegna che la vita è guerra civile. E lo insegna in modo molto cinico. Ha fatto il libro di Gracián è un'apologia cinica della dominazione a tutti i costi. Attraverso la dissimulazione, l'abilità, ma anche la violenza, il cortegiano deve essere un killer per non essere ammazzato. L'uomo abile, scrive il gesuita, l'uomo abile usa permanentemente gli stratagemmi, non fa mai chiaro quello che cerca di fare. Quando sembra di guardare di una parte, è un modo di orientare e di ingannare gli sguardi degli altri. Lascia qualche parola intorno a sé, e così occupa gli altri mentre lui prende una diversa direzione, eccetera, eccetera. È un trattato dell'inganno sociale. Suggerisco che attraverso la sua versione, la sua veste francese, l'oraculo manual ha finalmente trovato, cioè inventato, il suo bersaglio e il suo senso finale, il suo destino finale. Questo forse ci può orientare verso una conclusione un po' malinconica. Non c'è nessuna corte, penso, che abbia dato alle apparenze, alle maniere e ai comportamenti un'importanza paragonabile con quella che desse la corte di Luigi XIV, almeno nell'esperienza occidentale. Non c'è nessuna corte che dettagliato, codificato così minutamente tutti gli aspetti della vita sociale, le parole, i gesti, i vestiti, le attitudini, eccetera. Non c'è una corte che abbia investito l'apparenza di una simile densità di significati politici, sociali e culturali. E non abbiamo nessuna ragione di sospettare che non funzionava così. Ma questo è solo un aspetto, è un lato della medaglia. L'altro lato racconta una storia di violenza pura e semplice, e questa faccia è anche vera. Affatto non vanno separati l'una dell'altra, sono degli aspetti gemelli della stessa realtà. Norbert Elias sì era giusto quando sottolineava il fatto che la corte aveva giocato un ruolo centrale nella pacificazione sociale dell'ancien regime, ma penso che la corte era un gioco di guerra allo stesso tempo, e che questo aspetto, contrariamente a Elias, non va dimenticato. Perché? Perché la conformità di una parte e la violenza dell'altra erano delle risposte contraddittorie ma inseparabili a un problema simile: il carattere non prevedibile della volontà e delle manipolazioni del re, cioè la caratterizzazione fondamentale dell'assolutismo nel mondo francese. Di fronte di questa imprevedibilità del potere del re, rimaneva solo la necessità di sopravvivere. Grazie. Sono molto grato al professor Jacques Revel per questo contributo ampio e ricco di assi, di coordinate, di riferimento, che mi pare rientrare alla perfezione nel nostro ciclo. Quindi la sua preoccupazione iniziale mi pare assolutamente infondata. Faccio soltanto una rapidissima considerazione prima di passare la parola a voi. È curioso, per quanto mi riguarda come filosofo della politica, quando mi capita di ascoltare uno storico francese, i testi sono quasi tutti gli stessi testi che adoperiamo noi. Quando mi capita di ascoltare storici italiani, salvo rarissime eccezioni, i testi sono quasi tutti molto diversi. Mi sono cari praticamente quasi tutti i riferimenti che Revel ha fatto, da Norbert Elias al testo che ho molto amato di Ralph Ghisi sul cerimoniale funerario, appunto, nella Francia in Rinascimento. Mi è molto caro anche il riferimento a Castiglione e a Gracian, però entrambi contestualizzati storicamente. Ho trovato estremamente stimolante la battuta finale sulla reciprocità di logica comunicativa e logica strategica all'interno della corte come gioco di guerra, ma quindi sono tutti quanti temi sui quali abbiamo cercato di riflettere anche nell'ambito di quella disciplina estremamente difficile da definire, che è la filosofia della politica, ma appunto è significativo che anche da parte storica questi temi vengano in modo così perspicace oggi riconsiderati. Quindi chi vuole intervenire? Se può venire qui e parlare dentro è meglio, perché registriamo, semplicemente per questo. Volevo fare una domanda che si riagganciava a questa parte finale del suo discorso. Cioè, io volevo chiedere questo: il concetto nella trattatistica che nasce nella seconda metà del Settecento di felicità, no? Il concetto di felicità fra il governo del principe e la società si pone come momento successivo, cioè come sconfitta, come conclusione di questa visione invece della vita di corte e dei rapporti politici e sociali che ha delineato lei, o si pone, cioè nel senso, si pone come alternativa o si pone come logica conclusione di questo processo di rapporti all'interno della vita di corte? Sarei tentato di dire nell'uno o nell'altro, nel senso che conclusione certo di no, ma alternativa non credo, nel senso che l'idea di felicità non è imperniata sulla corte, è imperniata sul rapporto idealizzato, costruito nell'ultimo tratto della monarchia assoluta come progetto sociale, mentre l'ideazione della corte è un'ideazione di secessione, cioè la corte è a parte, e direi anche la stessa trasferta della corte a Versailles in un non luogo fuori della società è molto significativo di questa volontà di secessione. Quando si diffonde l'idea de bonheur, è una cosa molto diversa che guarda la capacità della macchina monarchica, non più della corte, a organizzare il bene dei soggetti. Non mi sembra un quadro. No, ma diverso. Dire, si può dire in un certo senso che la corte guarda fuori dalla corte stessa perché non è venuta meno quella, quella legge. Diciamo. Sì, non credo, non credo. Direi forse al contrario, vado un po' troppo avanti, che quando a partire della metà del Settecento si assiste a una semplificazione o a una trivializzazione di alcune forme coloniali e un'importazione della società e non un modello di corte che va esportato verso la società. Cioè con essi si finge di introdurre forme di vita bucolica, rurale, nel quadro di Versailles, è un tentativo per socializzare la corte e non per colonializzare la società. Allora, chi tiene di te? È davvero difficile poter intervenire in maniera esauriente su una relazione così vasta, appunto come anche notava Giacomo. Intanto ci troviamo di fronte ai problemi di dizionario, forse dovremmo in qualche modo mettere a punto semantiche particolari di tecniche quali quelle di dissimulazione, simulazione, di dissimulazione, tecniche di nascondimento, che si attuano attraverso modalità diverse, che sono quelle del tacere, del parlare, dei comportamenti, attraverso le quali si cerca di non mostrare qualcosa che è, oppure ad esempio a parte tecniche di simulazione, questa volta non più tecniche di difesa, ma di attacco, di inganno, l'inganno esplicito. Perché questo mio riferimento alle tecniche? Perché, ecco, il gioco dell'apparenza della corte seicentesca in Francia, il gioco della gestione dell'apparenza, può essere, ecco, in maniera, come dire, congrua, riportata, ricostruita con la metafora del gioco e delle regole del gioco. Vediamo, io penso, intanto vorrei fare ancora un piccolo inciso, cioè nella differenza che c'è tra la corte cinquecentesca italiana e la corte seicentesca francese, forse ci sono, intanto penso nella storia, di questo non ne sono molto sicuro, ma per quanto riguarda i modelli, le scritture di cui disponiamo, ci sono più, come dire, similarità e vicinanze piuttosto che lontananze, e certamente non mi riferisco tanto al modello delineato dal Castiglione, quando soprattutto alla trattatistica di fine 500, inizio 600 delle varie corti italiane, ci sta una trattatistica enorme, diciamo, la corte italiana, dove mettiamo l'opera del perfetto cortigiano di Canonieri, non è altro se non l'indicazione di tutte le perversità che si compiono a corte, ma queste perversioni sono in realtà delle tecniche di dissimulazione e di simulazioni codificate, precise e definite. Allora, il punto critico che forse si tratterebbe di mettere a fuoco rispetto alla relazione interessantissima del professor Revel e che vorrei sollevare è questo, cioè la gestione dell'apparenza di corte come compresenza paradossale di menzogne e verità, e la menzogna come denuncia o critica morale. Ma è possibile un discorso morale in questa corte? oppure forse proprio in riferimento, come dire, già solo alle scritture che noi abbiamo, o relative alla organizzazione dei comportamenti, o anche proprio alle tecniche politiche di intervento, di dissimulazione e simulazione. Ecco, noi troviamo in queste corti il problema forse centrale, non tanto morale, ma mettiamo della costruzione della felicità o della organizzazione della virtù, ancora come termine di riferimento di un possibile perverso comportamento, ma piuttosto forse il problema, diciamo, centrale dal punto di vista interpretativo è il problema della costruzione dell'obbedienza. Cioè, la corte è un modello preciso comportamentale e politico, pratico e politico, perché nella corte in qualche modo il principe deve dare in una maniera scientifica, la metafora del gioco degli scacchi è proprio quello del sistema, come diceva lei alla fine, autoregolato, è un modello tra virgolette scientifico di un modo dell'organizzazione della produzione di obbedienza. E allora, ecco, nella corte, come dire, le condizioni, il principe deve creare delle condizioni di incertezza generalizzata, cioè di incertezza sui tempi. Ma io penso che il problema forse centrale del principe, attraverso le scritture politiche, mi riferisco a quelle italiane, ma anche ho presente quelle francesi, da Charron alla Nouvé, alla Motte Le Vallée, a Mazarin, a Philippe la Bethune e così via. Cioè, penso che il problema del principe sia un problema proprio di un'esattezza tra virgolette geometrica, cioè quella certamente di dare il senso della incertezza, ma attraverso la costruzione di un rapporto determinato, e deve essere una costruzione positiva, produttiva positivamente, di una buona interrelazione di risposte rispetto a quelli che sono i problemi sui tempi immediati della presenza. E qua debbono intervenire delle tecniche politiche con codici determinati, questi codici li abbiamo. Io, torno a ripetere, mi riferisco alla trattatistica italiana che conosco bene, ma anche in quella francese. Cioè, da una parte c'è il tempo dell'intervento sul piano presente, immediato, ma poi il principe deve essere in grado di raccordare questa parte, la presenza, il presente, con il medio e lungo termine, che è quello appunto della costruzione del controllo e della disciplina sociale. Questo lo farà con strumenti diversi, ad esempio l'organizzazione scientifica dell'incontro tra gli interessi di una parte, ovviamente, dei cortegiani, quelli che sono più saggi, che saranno in grado di ritradurre all'interno di una gerarchia sociale i propri interessi come interessi politici. Ovviamente sarà il sovrano a riconoscere e a legittimare questi interessi. Interessi. La religione, altro strumento importantissimo, no? Che nella corte viene utilizzata, ma qua il modello della corte vale per la comunità, come termine strumentale esplicito della costruzione di obbedienza. E ancora via via, la festa, eccetera, eccetera. Allora è un'incertezza generalizzata, sì, sarà così. Il principe deve in qualche modo dare il senso che tutto è nelle sue mani e che quindi, come dire, questo può all'improvviso nientificarsi. Però io penso che l'organizzazione dell'intervento del sovrano, o comunque del principe, è quello di produrre obbedienza secondo, come dire, un prospetto, per certi aspetti direi geometrico, scientifico, della integrazione di questi tempi assolutamente diversi. Ora, se si tratta di un gioco, voglio dire, questo va bene, e forse la metafora può essere usata, soprattutto quella degli scacchi, però mi sembra un gioco tremendo. Ecco. Sì, ho poco da aggiungere, però due cose. Una è che la mia analisi è stata, penso, di un tentativo tipologico, cioè quello che ho cercato di fare e non di raccontare una storia continua fra l'inizio del Cinquecento e il Settecento, ma di caratterizzare due modelli che funzionano su criteri diversi. Però non credo che il problema dell'obbedienza sia centrale in Castiglione, invece va nascosto, va cancellato sotto la finzione di questa libera autodefinizione dei cortei. modo nel quale vanno assunte queste tensioni, cioè al tipo di costruzione sociale che consente a ciascuno di legittimare la sua posizione e il modo di gestirsi. Cioè l'invenzione in Castiglione della dissimulazione come onesta è un modo di richiamare che l'apparenza è più ricca della natura, è un'altra natura che attraverso il lavoro che si fa su se stesso crea un mondo più perfetto, più carico di significati che non il mondo spontaneo. Per questo la corte è legittima ad essere un esempio per il resto della società. Quando invece la dissimulazione torna ad essere una tecnica, che non è la Castiglione, ma che poi diviene nella tradizione seguente, poi nella pratica, nei tempi successivi, allora sì, entra in campo il problema dell'obbedienza. Ma lì direi, mi sembra anche cambiare il rapporto fra la corte e il resto della società. Ho suggerito che nel testo di Castiglione la corte serve di mediatore, cioè inventa delle forme di relazione sociale che vanno proposte alla società come modello. Nel caso della corte, mettiamo della corte di Luigi XIV, è un show che va offerto al paese, ma non come un modello elitario, come un modello irraggiungibile. E su questo direi sarei tentato di prendere qualche distanza con Elias. Elias pensa che il modo di domesticazione della nobiltà sperimentato la corte poi scende dal tessuto sociale e lo attraversa. Non è vero ma niente. Il sistema della domesticazione dell'aristocrazia non va al di là della corte. È quello che si vorrebbe imporre alla società, ma non è mai esistito. Su questo direi il fatto che Elias abbia lavorato su testi meramente letterari è un limite della sua analisi, ha fatto tutto quello che abbiamo imparato negli ultimi 50 anni su il ruolo di mediatore politico della nobiltà francese nel 600, smentisce l'ipotesi di una domesticazione generale. Per questo il ruolo della corte va definito sia come in circolo chiuso, non esce niente, tutto si passa dentro ma non ha relazioni costitutive con la società, sia come un ruolo di rappresentazione. La corte è quello che si vorrebbe ideare per la società, ma non si è mai neanche sognato di farlo. L'obbedienza è un'obbedienza di teatro, penso. Sì, no, volevo chiederti due cose. Una su quest'ultima che hai detto, nel senso che non so, non mi convince del tutto l'idea che non ci sia una ricaduta di questa obbedienza al di fuori della corte, voglio dire, dalle relazioni familiari a quelle che possono avere in altre occasioni sociali, cioè comunque sia l'interiorizzazione di un comportamento, mi sembra difficile che poi possa agire soltanto all'interno di un unico spazio. E invece l'altra cosa, questo così mi è venuto in mente ora mentre parlavi, l'altra cosa che ti volevo chiedere era questa, nel senso mi sembra che appunto tu distingui in modo molto convincente questa, l'esperienza della corte cinquecentesca rispetto a quella francese seicentesca, diciamo un passaggio da un rapporto di reciprocità a un rapporto di dipendenza e di obbedienza, che un po' mi sembra che caratterizza poi la corte come una situazione estrema, nel senso un punto di equilibrio tra coercizione esterna e interiorizzazione delle norme che non si ripete mai più, voglio dire in nessun luogo disciplinare si è più realizzata una simile perfezione. quello che mi domando è se però, diciamo, in questa caduta della reciprocità sul piano dei rapporti di forza e sul piano anche delle regole del gioco, però poi non resti, non permanga un'attesa di reciprocità sul piano del contenuto della relazione, nel senso che comunque Luigi XIV deve essere visibile come i suoi cortigiani, e nel momento in cui dopo di lui non sono più capaci di esserlo, il meccanismo si incrina. Grazie. Sì. Mi chiedevo, in relazione anche alle cose che diceva lei, a proposito del problema quanto sia ancora utilizzabile l'approccio di Elias e le critiche, appunto, lei faceva accenno appunto all'inizio della lezione alle critiche sulla povertà, il carattere scarso, poco articolato della documentazione che Elias aveva a disposizione, eccetera. E invece mi venivano in mente tutta una serie di altri problemi che sono stati invece